nell'anno nono di Sedecia, re di Giuda, nel mese decimo, venne Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito contro Gerusalemme, e posero l'assedio attorno a essa. Nell'anno undecimo di Sedecia, nel mese quarto, il nove del mese, fu fatta una breccia nella città. Entrarono tutti i principi del re di Babilonia e si stabilirono presso la porta di mezzo. Nergal-Sarezer di Sin-Magir, Nebosar-Sekim, capo dei funzionari, Nergal-Sarezer, comandante delle truppe di frontiera, e tutto il resto dei principi del re di Babilonia. Or appena li vide, Sedecia, re di Giuda, e tutti gli uomini di guerra fuggirono ed uscirono di notte dalla città per la via del giardino del re, attraverso la porta che sta tra i due muri, e si diressero verso l'Araba. Ma i soldati dei Caldei li inseguirono e raggiunsero Sedecia nelle steppe di Gerico. Lo presero e lo condussero da Nabucodonosor, re di Babilonia, a Ribla, nel territorio di Amat, dove istituì contro di lui un giudizio. Poi il re di Babilonia fece scannare i figli di Sedecia in Ribla sotto i suoi occhi. Quindi fece scannare tutti i nobili di Giuda. Poi cavò gli occhi di Sedecia e lo fece legare con catene per condurlo a Babilonia. I Caldei quindi diedero alle fiamme la casa del re e le case del popolo ed abbatterono le mura di Gerusalemme. Nebuzaradan, capo delle guardie, portò in esilio il resto del popolo che era rimasto in città, i fuggitivi che erano passati a lui e il resto del popolo rimasto. In quanto al popolo dei poveri che non possedevano alcunché, Nebuzaradan, comandante della guardia, lo fece restare nel territorio di Giuda e in quel tempo assegnò loro vigne e campi. Riguardo a Geremia, invece, Nabucodonosor, re di Babilonia, ordinò a Nebuzaradan, capo della guardia: prendilo e metti i tuoi occhi su di lui, ma non fargli alcunché di male, anzi, come ti dirà, così agirai nei suoi riguardi. Incaricò dunque Nebuzaradan, capo della guardia, e Nabuzazban, capo dei funzionari, e Nergal-Zarezer, comandante delle truppe di frontiera, e tutti i magnati del re di Babilonia. E costoro mandarono a prendere Geremia dal cortile della guardia e lo consegnarono a Godolia, figlio di Achicam, figlio di Safan, perché lo conducesse a casa. Così egli abitò in mezzo al popolo. Or la parola del Signore fu rivolta a Geremia mentre era prigioniero nel cortile della guardia in questi termini: va e di a Ebed-Melech l'Etiope. Così dice il Signore degli eserciti, Dio d'Israele: ecco, io sto per compiere le mie parole di sventura e non di felicità contro questa città. Esse si realizzeranno sotto i tuoi occhi in quel giorno. Ma io ti salverò in quel giorno, oracolo del Signore, e non sarai consegnato in mano degli uomini di cui tu temi la presenza. Sì, certo, ti scamperò e non cadrai di spada, ma la tua vita sarà per te il tuo bottino, perché confidasti in me, oracolo del Signore.